Vendo tutto di Matteo Caccia. Ci sono cose che non si vendono, sono le cose cui aspiriamo, sono desideri nascosti che all'improvviso saltano fuori e reclamano il loro spazio. Questa puntata è dedicata a una di queste cose che voglio tenere con me, perché il resto lo vendo. Vendo tutto. La mia ragazza mi ha lasciato, dopo 4 anni insieme mi ha lasciato. Capita, lo so, succede a tutti ed è toccato anche a me. Io però questa volta ho deciso, mollo tutto e me ne vado. La mia vita di seconda mano è in vendita, io ne inizio una nuova, venite a comprarvela, la vendita è aperta. Oggi però non vendo niente. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia, il programma invece si chiama Vendo Tutto. Lo sto facendo praticamente da quando ho cominciato. È più o meno da gennaio che vi chiedo di fare la stessa cosa che ho fatto io, ed è fermarvi 5 minuti, se servono magari 10 o mezz'ora o anche un'ora. Comunque di fermarvi un attimo e provare a immaginare la lista delle cose che non avete ancora fatto e che vorreste fare. Una lista di cose che quasi non ricordate più perché sfuggono, le cose ce le dimentichiamo, siamo troppo presi da quello che facciamo e quindi ci dimentichiamo forse quali sono le cose che dentro di noi vorremmo fare davvero. Ci sono persone che sono molto attente ai desideri propri e anche ai desideri altrui. È il caso di un ascoltatore che è in realtà un po' di più di un ascoltatore, che quando ha sentito la mia lista e mi ha mandato una mail, mi ha scritto: non posso accompagnarti nel deserto della Patagonia, però se tu vuoi imparare a camminare sul filo, fammi un fischio. Adesso Don Carlos ha la sua ultima possibilità. Ma badate bene, non è un numero qualsiasi, è un numero impossibile. Don Carlos. Pronto, Don Carlos? Pronto, Matteo. Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno a te. Allora, innanzitutto, Don Carlos è il tuo nome di battesimo, immagino. Sicuramente. Senti, il nome di battesimo è Carlo. È Carlo, perfetto. Però io continuerò a chiamarti Don Carlos, che mi piace di più. Anche a me, grazie. Allora, innanzitutto, per quale motivo tu potresti insegnarmi a camminare sul filo? Perché ho studiato per insegnarlo. Tu che cosa fai di mestiere esattamente? Giocoliere e insegnante di arti di circo. Quindi tu hai, vedevo sul tuo sito, che è, diamolo il tuo sito, che è ergiocogliere.it. Ergiocogliere.it, vedevo che tu appunto, oltre ad insegnare e a fare giocolerie varie, hai proprio degli spettacoli. Certo. Che tu porti in strada e porti ovunque. Come funziona? Cioè esattamente, uno che fa il tuo mestiere, sceglie dei giorni particolari, va in luoghi particolari, si sveglia e decide di fare lo spettacolo, oppure ci sono dei festival, ci sono degli appuntamenti? Tutti e due. Noi ci piace fare spettacolo dove c'è gente che ha voglia di vederci. E se ci chiamano in festival o comuni o feste, andiamo con piacere. Se non ci chiama nessuno, andiamo dove ci piace a noi. Senti, perdonami la venialità, ma si campa facendo questo mestiere? Sì, si campa, non si diventa ricchi, però c'è anche altre ricchezze. Beh, quello è fuori di dubbio. Senti, tu invece insegni anche in una scuola, giusto? Sì, ho fondato una piccola scuola di circo a Roma, si chiama Circo Massimo, e insegniamo ai bambini da 6 fino ai 50 anni. E che tipo di arte insegnate? Cioè, l'arte immagino quella della giocoleria e le arti circense. Giocoleria, poi camminare sul filo, appunto, la sfera, il monociclo, l'equilibrismo, l'acrobatica. Senti, veniamo quindi alla questione, cioè camminare sul filo. Io mi sono intrippato nel modo in cui racconterò a breve, cioè quando una volta, qualche anno fa, in un paesino della Toscana ho visto un uomo che lo faceva a 20 metri d'altezza. Quanto è veramente facile come sembra e quanto è veramente rischioso come sembra? Allora, rischioso non è rischioso, nel senso che colui che cammina a 20 metri d'altezza sa quello che sta facendo, non prende rischi. E facile non è facile che uno prende, sale e cammina, però se consideriamo facile una cosa che se uno decide di impararla a fare, la impara, allora è facile. Senti, io troveremo il modo per incontrarci, chiaramente, perché qualche lezione la voglio prendere. Mi dici due o tre cose che servono, quantomeno per prepararmi mentalmente, che servono per camminare su una fune? Il crederci, uno ci deve credere che può arrivare dall'altra parte. Senti, appena riesco a liberarmi ti chiamo e camminiamo sul filo. Ti aspetto con piacere. Grazie Don Carlos, ciao, buona giornata. Ciao, grazie, ciao, ciao. Ho iniziato a interessarmi al funambolismo quando ho capito che era privo di senso. Cioè, l'idea che un uomo cammini su una fune tesa a diversi metri da terra, per il semplice gusto di farlo. È una cosa talmente priva di qualsiasi giustificazione che mi ha quasi illuminato. L'estate dei miei 20 anni l'ho passata in giro per l'Italia, a fare dei piccoli spettacoli di piazza. Eravamo in 3. Ci mettevamo nell'angolo di un borgo pieno di turisti e facevamo qualche numero di giocoleria, un po' di micromagia e soprattutto facevamo i palloncini. Avete presente quei palloncini lunghi che si modellano e diventano un cane, un gatto, una spada? Ecco, quelli lì. Il tutto durava circa un'ora, anche perché la cosa difficile di quei palloncini non è tanto manipolarli, è gonfiarli. Vi assicuro che dopo un'ora, passata a spingerci dentro aria, il fatto che non mi venisse un enfisema era quasi miracoloso. Non facevamo tanti soldi, però alla fine nel cappello c'era sempre quello che bastava per il campeggio e una pizza. La sera che ci andò peggio fu quella in cui per la prima volta vidi dal vivo un uomo camminare su un filo. Eravamo a San Gimignano, in Toscana. Era fine agosto e qualche temporale era già arrivato a convincerci che a breve saremmo tornati a casa. San Gimignano è una splendida cittadina che trasuda Medioevo pure dai tombini. È detta la città delle torri. Ce ne sono 14. Il paese è così piccolo che sembrano tutte addossate l'una all'altra. Lì turisti non mancano mai. Soprattutto americani, che all'epoca erano pronti a tirare fuori le lire come fossero caramelle. Abbiamo iniziato a fare qualche palloncino, ma dopo mezz'ora nel cappello non c'erano neanche 10.000 lire. Ed erano veramente troppo poche. La piazzetta dove ci eravamo messi era nel centro, però era deserta. Nel bar di fronte avevamo sentito dire che quella sera ci sarebbe stato uno spettacolo, ma di solito non ci aveva dato fastidio, in estate c'è sempre spazio per tutti. Finché ho alzato gli occhi e l'ho visto. Tra due torri c'era qualcuno che camminava su una fune. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Tutta la gente che doveva essere in giro per le strade di San Gimignano quella sera era ammassata sotto quelle due torri. Tra gli spettatori c'erano anche vigili del fuoco, carabinieri e un'ambulanza. E non sembravano per niente tranquilli. E avevano ragione. L'unico strumento di sicurezza che stavano usando era un materassone verde, di quelli da palestra del liceo, che non avrebbe attutito la caduta manco d'un gatto. Era stato annunciato come uno spettacolo circense. A me però pareva che col circo non c'entrasse nulla. Non c'erano tendoni, non c'erano tribune, non c'era musica. C'era solo un uomo vestito di bianco che camminava nel cielo, tenendo tra le mani un bilanciere. La gente stava con la testa all'insù. Qualche signora aveva la mano sulla bocca come dire «Oh mio Dio!» oppure «Quello è pazzo!» Però lui sembrava tutt'altro che pazzo. Era a circa 20 metri d'altezza, quindi non riuscivo a vedere la sua faccia. Però la sensazione che dava era di enorme tranquillità. Faceva avanti e indietro sul filo molto dolcemente. Poi si sedeva, con una gamba a penzoloni e il bilanciere su una coscia, come se stesse bevendo una birra. Le persone erano diventate spettatori e iniziarono ad applaudirlo, e lui salutò, portando la mano alla fronte, come se si togliesse un cappello invisibile. Una bimba vicino a me chiese alla mamma se era un angelo, e egli disse di no, che era un uomo. E io pensai che aveva ragione, perché non sembrava una creatura ultraterrena. Era semplicemente una persona che passeggiava. Ecco, in quel momento compresi la meraviglia di quello che stavo vedendo. Tutto ciò era privo di senso. Quell'uomo stava facendo una cosa estremamente pericolosa senza un perché, ma solo per regalare a noi la poesia di un gesto pieno di bellezza. I vigili del fuoco avevano iniziato ad innervosirsi. Quello che sembrava il capo borbottava che l'accordo era che non durasse più di 10 minuti, mentre il funambolo era lassù da quasi mezz'ora. Però vi assicuro che se non avessi sentito la loro tensione, quella sera io non avrei percepito nessun pericolo. Ci ho pensato poi, giorni dopo, al fatto che il pericolo lo vedeva lui, dalla sopra, non noi da sotto. È un po' come succede quando dalla strada si guarda un terrazzo al sesto piano e non pare altissimo. Mentre quando ci si è sopra, il mondo sembra minuscolo, lontanissimo. Ecco, allo stesso modo, l'uomo sul filo vede la strada, vede il vuoto sotto di lui e sa che basterebbe un piccolo errore per cadere. Ma la sua bravura sta proprio nel non fare percepire a noi che siamo sotto quel rischio. Sono passati 15 anni da quella sera, però l'immagine di quell'uomo che passeggia è ancora qui con me, e io sono in aria insieme a lui. È per questo che vorrei provare a camminare su un filo. No, non voglio diventare un funambolo. Non sono capace di fare cose in cui il rischio è troppo alto. Voglio solo provare ad immaginare di avere il vuoto sotto e un filo tra i piedi, mentre nelle mani tengo in pugno un'asta, lunga come una vita. Vendo tutto Radio 24, vendo tutto @radio24.it. Io ringrazio Don Carlos per avermi dato proprio le basi per diventare un funambolo, o insomma per provarci, insomma. E ringrazio però soprattutto il tizio che quella sera di San Gimignano ha camminato su un filo, perché se uno dei punti della lista dei miei desideri è proprio provare a camminare su una fune, anche grazie o per colpa sua. Però, come sapete, ormai da tempo, per poter realizzare questi desideri io ho bisogno di vendere tutto. Le mie cose hanno cominciato a essere vendute e soprattutto hanno cominciato ad arrivare ai destinatari. È il caso, non so se ve lo ricordate, di un quadro. Era un quadro in cui il disegno era quello di una ragazza che stava al telefono, era in casa mia. Adesso non è più in casa mia, è in casa di Giacomo. Pronto, Giacomo? Oui. Eccolo qui, come stai? Ciao Matteo. Bene, grazie, tu? Bene, bene, grazie. Allora, giusto per far capire a chi sta ascoltando cosa è accaduto, quando ho cominciato a vendere il quadro mi è arrivata una mail di una ragazza che mi diceva mi piacerebbe molto comprare il tuo quadro, se per caso si può prenderlo a mano invece che spedirlo, basta passare da Milano. Io le risposi di sì. Poi quella ragazza non si fece più sentire e il quadro se lo aggiudicò Giacomo. Giacomo arrivò qui, prese il quadro e mi raccontò che quella ragazza era la sua fidanzata e loro avevano deciso di comprare il quadro. Lei poi aveva abbandonato perché l'asta era salita troppo e invece lui gliel'aveva comprato e alla fine gliel'ha regalato, giusto? Sì, esatto, è andato proprio così. Come l'ha ricevuto Chiara il regalo? Ma solo la sera in cui l'ho ritirato da te sono riuscito a trafugarlo in casa senza che lei se ne accorgesse. E gliel'ho fatto trovare nel camerino di casa. In che senso? Cos'è il camerino? Ma abbiamo una piccola stanza che è adibita a spogliatoio. Perché voi, Giacomo, tu mi raccontavi che siete andati a vivere insieme non da molto, o comunque avete cambiato casa non da molto, giusto? Sì, praticamente adesso viviamo in una casa qui a Lugano, e da un annetto diciamo viviamo insieme. E dobbiamo tra poco decidere se comprarla. La casa in cui vivete o un'altra? No, no, no, proprio la casa in cui viviamo. Ah, ok, ok. Quindi probabilmente il quadro sarà un po' come l'allunaggio. Pianteremo cioè... il quadro come la nostra bandiera. Ah, ok. Tra l'altro Giacomo è stato praticamente il primo ascoltatore acquirente che ho incontrato, nel senso che tutti gli oggetti li ho spediti, invece lui è venuto qua sotto e ci siamo visti. La cosa però appunto che mi incuriosiva, perché io e te ci siamo visti e sentiti, era sapere qual era stata la reazione di Chiara. E quindi, Giacomo, a questo punto lo chiedo direttamente a lei. Pronto, Chiara? Ciao Matteo, buongiorno, ciao. Senti, è andata più o meno come dicevo, no? Che tu volevi prenderlo, poi avevi mollato e poi te lo sei trovato a casa. Sì, esatto, non avevo mollato, è stata una serie di circostanze. Senti, invece adesso il quadro è appeso oppure ancora nel camerino, come mi diceva Giacomo? Il quadro deve essere ancora appeso, perché è il primo quadro e come tutte le prime cose ha bisogno di una progettazione. Senti, l'ultima cosa, voi abitate a Lugano, però non siete di Lugano. No, siamo di Trento. Ok, e siete andati a vivere a Lugano perché? Siamo andati a vivere a Lugano perché Giacomo già lavorava qua in Trento. Ah, ok, semplicemente per questione di soldi. Però alla fine, anche grazie a questione di soldi, vi siete aggiudicati il quadro. Chiara, io ti ringrazio, salutami Giacomo quando torni a casa e poi magari fate una cosa, mi fate una foto del quadro e me la spedite avendo tutto @radio24.it, così vediamo dov'era a casa mia e dov'è a casa vostra. Va bene, perfetto. Chiara, grazie mille, buona giornata. Prego, grazie a te. Ciao, grazie. Oggi voglio tracciare tutti i miei oggetti e quindi dal quadro passiamo, ve la ricorderete, a una cerata. Era una cerata che mi ero comprato per il mio primo corso di vela e quindi la usavo quando andavo in barca. La cerata è finita a Marco. Pronto? Pronto, ciao Matteo. Eccolo qua, ciao Marco, come stai? Bene, grazie, tu? Bene, bene, la mia cerata, cioè perdonami, la tua cerata? La nostra, come la definisco io. Tutto a posto? È tutto a posto, non l'ho ancora attestata perché il clima sarà l'effetto serra, non so, ma non ancora mi permette di testarla con il clima adatto. Tu Marco dove abiti? Io abito a Ortona, sull'Adriatico, in Abruzzo. Ah ok, quindi vai in barca lì? Sì, sull'Adriatico, condivido questa passione con mio suocero che è anche l'armatore nonché comandante. Okay. Io sono il suo... L'armatore, per chi non sapesse, è banalmente il proprietario della barca. Esatto, io sono il suo vice, però l'equipaggio è di due persone, quindi si sa chi dà gli ordini e chi esegue, vabbè. A parte okay, questo. È sempre lui. Senti, sempre lui. La cerata però l'hai provata? Ti calza a pennello? È perfetta e colma questo mio grande limite, nel senso che io uscivo in barca solo col sole e il bel tempo. Ah, quindi perfetto. Evitavo tutta la cattiva, ma non perché avessi paura della pioggia, ma perché non ero equipaggiato bene. Fantastico, invece adesso ce l'hai. Senti Marco, io purtroppo ti devo salutare, però vorrei chiedere anche a te la stessa cosa che ho chiesto a Giacomo e Chiara. Fatti fare magari da tuo suocero una bella foto con la cerata in barca e poi me la mandi. La farò sicuramente. Ok, Marco, l'aspetto, ti ringrazio, buona giornata e buona cerata. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Oggi purtroppo ne riesco a sentire solo un altro di ascoltatore che ha ricevuto un mio oggetto, è la chitarra, mi pare, giusto? Era la mia chitarra, che non è per lui, credo, ma per sua figlia, giusto Guglielmo? Sì, sì, è per mia figlia. Ciao, buongiorno, come Ciao. Stai? Bene, grazie. Allora Guglielmo, tu ti sei aggiudicato il mio secondo oggetto, perché la chitarra era proprio il secondo giorno ed era l'oggetto grazie a cui o per causa del quale avevo incontrato Giulia. La chitarra è arrivata, è a posto? A posto, perfetta, anche con gli spartiti. Ah già, è vero, perché sono solo da iniziare a suonare. Ma senti, ma tu mi avevi scritto che era per tua figlia però la chitarra. Sì, sì, mia figlia ha 6 anni e ho detto cerchiamo di fare un investimento per il suo futuro. Cioè, quindi allora, obbligarla, proviamo con l'arte. Perché non sei di quei genitori che vogliono che faccia l'avvocato o il medico. No, io speravo nel Nobel, ma visti i primi risultati all'elementare ho desistito subito. Senti, ma quindi ci ha provato almeno a suonarla o niente? Sì, sì, sì, no, all'inizio entusiasta, si è messa lì in posa come Freddie Mercury. E poi è lì, aspettiamo che diventi un po' più grande lei per la grandezza della chitarra. Senti, non ce l'hai lì con te, quindi non posso chiedertela di suonarla, ovviamente. No, ma poi non sarei neanche in grado di farlo, io sono proprio negato. Guglielmo, sì, scusami, sì. Tu, poi ti saluto, cosa fai nella vita, dove vivi? Io vivo a Savigliano, vicino a Cuneo, uh-huh. E faccio il commerciante. Ah, ok, quindi sei in giro anche in questo momento? Sì, sì. Guglielmo, senti, allora facciamo così, non ti chiedo di mandarmi una foto come ho chiesto agli altri, però quando magari tua figlia sa fare un do maggiore, sì. Tu mi chiami e registriamo il do maggiore fatto da tua figlia. Vabbè, se hai tempo. Va bene, tempo non manca. Guglielmo, grazie mille, buona giornata. Ciao. Ciao, grazie, grazie. Allora, come oggi più che mai, visto che si parla degli oggetti che ho venduto e dei soldi che ho fatto, dove finiscono questi soldi? Finiscono qui. Fare il bagno nelle terme di Nagano insieme ai macachi. Scalare il Monte Rosa. Attraversare l'Atlantico su una nave cargo. Lanciarmi col paracadute da 6.000 metri. Sposarmi a Las Vegas. Non importa con chi. Giocare una partita a tennis con Nadal e batterlo. Portare a cena fuori Natalie Portman. Fare un viaggio in mongolfiera. Spaccare a pallonate tutti i vetri di casa dei miei e poi ricomprarglieli. Imparare a suonare la batteria. Incontrare Obama, Mourinho e il Dalai Lama. Fare un viaggio con la Transiberiana. Vedere una finale del Super Bowl. Vedere il Taj Mahal. Attraversare la foresta amazzonica. Vedere il deserto della Patagonia, quello del Gobi e quello del Nevada. Imparare il cinese. Imparare l'arabo. Prendere il brevetto da pilota e quello da sub. E poi imparare a camminare sul filo. Se avete voglia di saperne di più sul funambolismo e su esattamente che cos'è e per quale motivo mi ha catturato, potete, ci sono due documenti su tutti. Uno si chiama Man on Wire, è un documentario della Feltrinelli, che racconta la storia di Philippe Petit, che è forse il più grande funambolo di tutti i tempi e che ha scritto un libro che si chiama Trattato di funambolismo. Lì trovate più o meno tutto quello di cui ho parlato e chiaramente molto di più. Io ringrazio Laura Faggitti, Tiziano Bonini, Alessandro Genovesi e Fabio Rudi Cantadori. Forse non imparerò mai a camminare sul filo, ma l'immagine di quell'uomo su una voglio tenerla con me per tutta la vita. Ecco perché per una volta, invece che incitarvi a liberarvi delle cose, vi raccomando di tenere con voi quelle immagini che ogni tanto saltano fuori e reclamano il loro spazio. Love, love, love.